Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buongiorno a tutti, benvenuti a Magazine 24, rassegna stampa dei settimanali, magari anche dei mensili, magari anche qualche proposta di lettura più complessa in questa puntata di oggi. Con l'estate naturalmente abbiamo tutti un po' più di tempo per leggere, noi per primi qui a Magazine 24, ma speriamo anche voi che ci state ascoltando, che siete magari in vacanza o vi state preparando alle vacanze. Allora, innanzitutto vi devo segnalare una cosa che accade oggi, che sta cominciando ad accadere oggi. Oggi, 24 di luglio, è il giorno del film su YouTube, una iniziativa lanciata da Ridley Scott, un esperimento cinematografico senza precedenti. A ricordarcelo Panorama nella sua rubrica Nuovi Mondi, è una pagina che viene tutte le settimane dedicata appunto a esperimenti che hanno un qualche legame con la tecnologia, specialmente i nuovi mezzi di comunicazione. Ci spiega che proprio oggi possiamo tutti essere protagonisti per un giorno. Cosa succede per chi non avesse colto, non avesse già sentito questa notizia? Vi riferisco con le parole di Panorama. Un esperimento cinematografico senza precedenti, il produttore Ridley Scott, tanto per capirci parliamo di colui che ha prodotto Alien, il gladiatore, Robin Hood, insieme a un amico regista che si chiama Kevin MacDonald, al suo attivo L'ultimo re di Scozia, ha lanciato un appello su YouTube: vieni a far parte della storia del cinema. Il progetto si intitola Life in a Day, cioè la vita in un giorno. È il primo film creato dagli utenti della video community più cliccata al mondo. Io penso che tutti sappiate cos'è YouTube. In sostanza è un sito dove vengono posizionati dei video mandati dagli stessi utenti o reperiti dagli stessi utenti in giro per internet, per la rete. Naturalmente possono essere video di qualsiasi genere, amatoriali o anche video di produzione più complessa, magari addirittura industriale. Viene a far parte della storia del cinema. Cosa significa? Che hanno lanciato questo appello, hanno detto: raccontateci la vostra vita quotidiana. A tutti gli internauti videoamatori un unico tema: raccontare per immagini tutto quello che accade nella loro giornata del 24 luglio, cioè oggi. Questo è stato denominato come primo documentario generato dagli utenti su scala planetaria, perché l'appello non è solo statunitense, riguarda tutto il mondo. E poi ci sarà qualcuno, appunto Ridley Scott e il suo staff, che dovrà mettere insieme i miliardi di fotogrammi che verranno postati, cioè inviati, messi, editati, diffusi su YouTube. Kevin MacDonald sarà appunto il regista che si occuperà di selezionare, realizzerà un lungometraggio. Questo lungometraggio verrà presentato poi in anteprima al Sundance Film Festival del 2011. Life in a Day, spiega MacDonald, cioè il regista, è la registrazione di una porzione temporale che testimonierà alle future generazioni la vita sulla Terra nel giorno del 24 luglio 2010. C'è naturalmente uno sponsor, c'è una società che ha distribuito videocamere anche ai confini del mondo per creare una copertura più globale possibile. Poi gli spezzoni che verranno scelti naturalmente permetteranno ai loro realizzatori di vedere il loro nome nei titoli di coda come co-registi. Tutto questo ce lo ha segnalato Guido Castellano sul numero di Panorama in edicola questa settimana. In realtà di YouTube si era parlato anche su un altro magazine, un altro settimanale, si tratta di Newsweek. Perché? Perché YouTube ha interessato anche i colleghi di Newsweek, che si sono occupati di quali tipo di video vadano poi forte, vengano poi preferiti su questo canale telematico. Perché le classifiche, le segnalazioni appunto di richiesta di visione di questi video segnalano magari delle cose più inattese di quello che si potrebbe pensare. Allora, infatti, così comincia proprio l'articolo di Newsweek, dice: molti di noi sicuramente possono avere in testa qual è la classifica del momento riguardo alle hit musicali oppure ai libri, ma più difficilmente sapremmo indovinare qual è il video più visto su YouTube. Allora ve lo dico subito: il video più visto su YouTube non riguarda, come scrivono quelli di Newsweek, un bambino, non riguarda un ragazzo che fa qualcosa di particolarmente divertente o buffo. La risposta invece è Bad Romance, è il video musicale che ha per protagonista e interprete Lady Gaga. Questo video è stato visto 244 milioni di volte, 244 milioni e rotti, quasi 245. Al secondo posto c'è Justin Bieber, che è anche lui un cantante ma un po' particolare, perché in realtà è una sorta di cantante autoprodotto, cioè si tratta di un giovane, un giovanissimo, che è stato filmato poi dalla madre mentre interpreta delle canzoni, e i suoi video sono poi diventati famosissimi. Si piazza molto bene il, direi, collega a questo punto di Lady Gaga, perché sta a 243 milioni di richieste di visione per la sua canzone Baby. E poi finalmente c'è un evento, un filmato che riguarda invece un bambino piccolo. Sono filmati che vanno sempre molto forte, lo sappiamo, vanno molto bene sempre anche in televisione e così anche su YouTube. Quindi questi filmati che poi vengono messi a disposizione della comunità di internet su YouTube trovano sicuramente successo. E più avanti ancora, però siamo già molto indietro, perché siamo a 138 milioni di richieste di visione. E poi via via vengono tutti i video che chiameremo amatoriali. Da questa considerazione Newsweek ricava, appunto, Ramin Sitoudi, che è l'autore di questo articolo, ricava una serie di riflessioni che riguardano proprio i video, video musicali soprattutto, perché possiamo dire che in 30 anni, cioè dall'esordio delle prime televisioni musicali interamente dedicate a video musicali, il gusto, la nostra attenzione per i video con le canzoni sia profondamente cambiata. Ad esempio, riferisce, appunto, Sitoudi, MTV aveva cominciato nel 1981 con programmazione di video per 24 ore al giorno, una programmazione estremamente semplice, e in realtà adesso le cose sono parecchio cambiate, perché in questo momento negli Stati Uniti, riferisce Newsweek, MTV concentra i suoi video tra le 3 del mattino e le 9 del mattino, dopodiché i video vengono naturalmente trasmessi, ma all'interno di trasmissioni di programmi un po' più articolati, quindi il semplice video in qualche modo non basta più. Ed è poi questa mi pare la riflessione più importante che viene fatta, cioè come dice la radio, come dice la canzone, il video ha ucciso le star della radio, una famosa canzone di un po' di anni fa, anche la TV, la reality TV, quindi anche la possibilità di riprendere per nostro conto e di mandare in onda poi video, di diventare noi stessi producer televisivi, sta uccidendo i video musicali, o comunque li sta costringendo a cambiare. Questo è vero fino a un certo punto, perché come abbiamo visto in realtà la più cliccata, la più seguita è Lady Gaga, quindi una professionista del settore, un video assolutamente ineccepibile dal punto di vista della produzione musicale, e che è stato poi rilanciato a sua volta dalle parodie di coloro che hanno rifatto lo stesso video ma in condizioni ovviamente molto più amatoriali. La più famosa di queste parodie è stata girata da un gruppo di soldati americani in Afghanistan che hanno provato a rifare il video di Telephone, che è un'altra canzone appunto di Lady Gaga, e hanno avuto un buon successo pure loro in questa parodia del più famoso video musicale. E allora, visto che parliamo di parodie e parliamo di come dire, utilizzi magari un po' diversi da quelli che ci si aspetterebbe per la cultura, la cultura musicale, i video, vi voglio segnalare un'iniziativa molto particolare che presentiamo questa volta in libreria, non in edicola, quindi dovete magari impegnarvi un attimo di più. È un libro che è stato scritto da Enrico Cerni, si chiama Dante per i manager, e il sottotitolo è La Divina Commedia in azienda. Questo volume, penso che tutti voi abbiate potuto leggere almeno qualche verso della Divina Commedia, a scuola è materia, come sappiamo, della scuola dell'obbligo. Questo volume in sostanza prende alcuni passaggi, nonché la stessa costruzione naturalmente del capolavoro dantesco, e prova ad applicarlo alle categorie che magari tutti noi vediamo in ufficio, o magari qualcuno di noi, appunto, chi si occupa poi della gestione del personale o di dover dirigere dei gruppi, si trova anche ad applicare. Per farvi un esempio che magari è più chiaro di quello che vi sto dicendo, Minosse, ve lo ricorderete, quello che stava lì orribilmente, come scrive Dante, ringhia, esamina le colpe all'entrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Ecco, Minosse, che era appunto colui che decideva dove dovevano andare i dannati, in fondo è un recruiting manager, cioè è un signore che seleziona secondo le attitudini. Così come Francesca, la famosa Francesca di Paolo e Francesca, penso che tutti la conosciate, in un certo senso è un guru della comunicazione cosiddetta emozionale. E infatti a un certo punto Dante le fa dire: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Tutto questo prosegue naturalmente per le varie cantiche, è un volume, ve lo ripeto, si chiama Dante per i manager, imparare a puntare in alto con i versi della Divina Commedia. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, vi stavo parlando di contaminazioni perché vi ho segnalato questo volume Dante per i manager, quindi la Divina Commedia spiegata con figure accostata, diciamo, accostando i vari personaggi a figure che incontriamo nel mondo del lavoro, che tutti noi incontriamo, magari ruoli che svolgiamo noi stessi, spiegati con i versi e le descrizioni di Dante Alighieri. Un altro volume che fa una contaminazione ugualmente interessante è quello di Piero Chiappano, sempre edito dal 24 ore, e il titolo già spiega molto: Manager Songbook, rock e canzone d'autore per migliorare l'azienda, quindi utilizzare le canzoni italiane e straniere per trarne poi delle indicazioni manageriali, delle indicazioni nella gestione delle persone. Tanto per farvi capire, in un passaggio del libro si spiega come la motivazione possa venire partendo dai versi, ad esempio, di Vasco Rossi: voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Questa canzone che conoscono penso tutti, ed è uno dei passaggi che l'autore utilizza, che Piero Chiappano utilizza, per poi ragionare sulla, appunto, la possibilità di trovare nelle canzoni rock, nelle canzoni più diffuse, delle indicazioni di gestione del personale. Ma vi voglio continuare a parlare di lavoro, spero che molti di voi siano in ferie e quindi possano ascoltare queste segnalazioni con animo leggero, con animo più leggero quantomeno, perché ancora su Newsweek ho visto una cosa interessante che poi, devo dire, qualche quotidiano italiano ha anche ripreso nelle sue pagine. Una di quelle domande eterne: ma essere belli conta o no nel mondo del lavoro? Beh, direi che intuitivamente ognuno di noi risponde sì, certo che conta, o comunque sempre meglio che non essere belli, sempre meglio essere graziosi, gradevoli in qualche modo, piuttosto che non esserlo, specialmente sul mondo del lavoro. Newsweek ha provato a chiedersi quanto conta essere belli, cioè quanto una persona di bell'aspetto può essere favorita. Ha fatto anche un sondaggio, ad esempio sentendo dei manager dell'ufficio personale, e i quali hanno effettivamente, nel 61% dei casi, hanno ammesso che per una donna specialmente è utile essere graziosa, essere attraente per trovare un posto di lavoro. Ma soprattutto quello che ci può più interessare non è tanto il trovare il posto di lavoro, quanto anche la possibilità di guadagnare, perché pare che una persona, secondo gli studi e le rilevazioni che sono state fatte negli Stati Uniti, una persona attraente, una persona bella, possa arrivare a guadagnare di più, anche discretamente di più, rispetto a una persona meno bella. Quindi non si tratta solo di farsi scegliere, ma poi anche di essere promossi, di avere degli avanzamenti di retribuzione o di carriera. Jessica Bennett, che è l'autrice di questo articolo, parte da un caso di cronaca che da noi non ha avuto particolare eco. Si tratta di una 33enne che è stata licenziata per il motivo opposto, è stata licenziata perché era molto graziosa, ma era anche troppo poco vestita per il posto in cui lavorava. Si trattava di una banca, e il direttore si è lamentato appunto della sua eccessiva carica, del suo abbigliamento poco consono, e quindi da lì è venuto fuori un contenzioso ed è stata poi allontanata dal posto di lavoro. Letteralmente, riferisce Jessica Bennett, è stata allontanata perché è too hot, potremmo dire troppo calda, troppo sensuale, insomma, nel suo atteggiamento. Quindi in questo caso la bellezza in qualche modo ha giocato contro. Nella realtà però, come argomenta poi la Bennett, siamo così sensibili ormai al make up, al trucco, alla cura di noi stessi, che effettivamente è molto più comprensibile come la bellezza conti parecchio. Il 57% dei manager sentiti da Newsweek ha ammesso che trovare un lavoro è più difficile per un candidato che non è attraente. Ora, nel non attraente dobbiamo evidentemente capirci su quanto può essere l'attrazione, dove può cominciare la non attrazione, insomma. Anche tra i dipendenti sono state fatte delle domande e delle risposte, alcune risposte sono interessanti, perché ad esempio persone che erano in sovrappeso, donne o uomini, hanno affermato di aver subito delle discriminazioni sul lavoro per la loro condizione fisica. Ripeto, 60% tra le donne e il 40% tra gli uomini, quindi le donne sovrappeso hanno avuto la sensazione, hanno dichiarato di aver subito maggiori discriminazioni rispetto agli uomini. E sostanzialmente la maggioranza degli intervistati non ha fatto che confermare quella che potremmo definire una nozione di buonsenso, cioè l'essere attraenti sicuramente favorisce e porta anche però non solo a trovare più facilmente un lavoro, ma anche a trattenerlo e a guadagnare di più, quindi a ottenerne di più. C'è un ultimo studio che viene riferito sempre da Newsweek, si tratta di un lavoro fatto da una docente universitaria a Stanford, Deborah Rhodes, che si è occupata nel suo volume Il canone della bellezza di una serie di casi, e uno di questi casi è stato dedicato alle donne avvocato, quindi donne, come spiega la stessa Rhodes, che sono leader in qualche modo, hanno potere e non hanno in qualche modo bisogno di utilizzare il loro aspetto fisico per lavorare o per affermarsi sul lavoro, ma lei dice tutte queste donne sono in realtà spesso molto attente, ad esempio a mettersi i tacchi, a mettere scarpe con il tacco, al punto di rendere difficile anche gli spostamenti sul lavoro, gli stessi spostamenti sul lavoro. Beh, dice, evidentemente molte di loro naturalmente ameranno mettersi scarpe con il tacco e questa è una loro libera scelta, ma probabilmente influisce anche il fatto che non intendono rinunciare a quel plus, a quel vantaggio che può essere garantito da un aspetto fisico gradevole, ed è quello poi che appunto abbiamo sentito riassumere dall'articolo di Jessica Bennett su Newsweek. Per contrappasso, in qualche modo va detto che ci sono anche le cose puntate sui brutti. Molti di voi avranno visto, tutti voi penso avrete visto, queste pubblicità in cui si mette a confronto un calciatore ritratto al naturale, quindi una figura bella di sportivo, e poi un suo quasi sosia che è molto più brutto di lui, e per questo per dire che il bello del calcio sta solo da una parte e non da un'altra. Della cosa si occupa Fiamma Satta, che tiene una rubrica su Vanity Fair, che critica un po' questo accostamento, dice è brutto scherzare sui brutti, perché questi giocatori che vengono truccati da loro brutte copie, dice, non mi hanno incuriosito affatto. Vedere Cassano e colleghi divertirsi un mondo ad apparire brutti con pance, capelli diradati, dentoni, occhiali, a me ha fatto venire un bel po' di tristezza. Perché, scrive Satta, siamo ancora a indicare cosa sia bello e cosa sia brutto, ancora la definizione delle persone in base a presunti canoni estetici? E chi lo dice? Chi lo ha deciso che Cassano con la pancia è brutto? Io, ad esempio, lo preferirei così. E poi si chiede come si potrebbe sentire un uomo con la pancia a guardare quelle foto. Forse umiliato e sicuramente non all'altezza. E a proposito di altezza, prosegue Fiamma Satta, ci mancavano i paginoni dei quotidiani dedicati a Iniesta, il giocatore spagnolo che ha fatto il gol decisivo nella finale dei mondiali, che, come è noto ormai, è alto 1,70 m. E naturalmente nel calcio moderno risulta essere basso di statura. E quindi giù tutti, scrive Fiamma Satta, giù tutti a fare il banalissimo elenco dei bassi famosi, per partire da Napoleone, arrivare ad Dustin Hoffman e ad altri ancora, per dimostrare che in fondo una bassa statura, scrive Fiamma Satta, non è un limite al talento. Ma va, mancava solo che titolassero nella botte piccola c'è il vino buono. E allora, con questa segnalazione, con questa sottolineatura polemica di Fiamma Santa trovata su Vanity Fair, si è concluso il tempo a nostra disposizione per questa mattina. Io vi ricordo che domani torna Magazine 24 con una nuova puntata, sempre alle 8:30. Ringrazio Pietro Lacorte questa mattina in regia con me e grazie anche naturalmente, come sempre, a Margherita Aina e a Luca Rinaldi che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Se volete, potete riascoltare Magazine 24 tutta questa puntata o anche tutti gli altri programmi di Radio 24 collegandovi al nostro sito www.radio24.it. Grazie, buona giornata a tutti.